Quella che state per ascoltare è la voce dello Sputnik, registrata poche ore dopo il lancio da una stazione di intercettazione di Milo, sulla Comincia. Thank you.